The dreams we have. We're gonna go.

Thank you. tonight. She's just another star shining into us. You'll light the eyes far away into the night. Here comes a man falling in love and age, and that's been said. Should help each other today. like a picture taken by your eyes. I like the way you talk when you move me on, when you move me on. And I never think about the things you thought. It's another way. Thank you.

And I haven't felt so alive in years. So alive in years. The moon shining in the sky reminds me of so many other nights when my eyes had been so red. I'd been mistaken for dead, but not tonight. Con gli amici sintonia, storie forti così sia. Con gli amici sintonia, il male vado via. Io con loro condivido del mio amico, io mi fido, c'è totale trasparenza e non posso stare senza. Riposino, respirazione, lo di lasciare cambiare la tua vita. Trova il tempo e cambia la tua vita. Lo di lasciare cambiare la tua vita. Trova il tempo e cambia la tua vita. Lo di lasciare cambiare la tua vita. Trova il tempo e cambia la tua vita. Lo di lasciare cambiare la tua vita. Trova il tempo e cambia la tua vita. Trova il tuo tempo, comincia un po' a ballare. Non è la vita che ti deve cambiare. Trova il tuo tempo, comincia un po' a ballare. Quando ballo perdo il nome, trovo un'altra dimensione. Mi sto bene, trovo amici, belle storie, sono felici. Settimana un po' snervante, poi il lavoro che è pesante. Devo stare molto attento perché debole è il mio cuore. Per fortuna c'è l'amore, se, se lei mi lascia perché dice che con me non è felice. Come cacchio devo fare se la vita non mi ascolta e fa quello che gli pare? Vabbè, non è lei che deve darmi, sono io che non devo abituarmi. Si continua a idealizzare, consapevole del fatto che ogni cosa può cambiare. Magari ora più quella che per te non è la stella. Sei sicuro di passare dalla brace alla padella? Perché vedi ciò che cerchi solo sotto i tuoi coperchi. Ti coprono la mente, così tu sei più incosciente. Puoi riuscire a idealizzare nella botola del mare. Non ti lasciare cambiare la tua vita. Trova il tempo e cambia la tua vita. Thank you.

Cara musica, se ci sei, batti, batti, batti, batti, batti, batti, batti, batti, batti, batti.